Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana e nuovo appuntamento insieme all'Adico di Mestre. Saluto il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Parliamo di una cosa che tocca le nostre tasche, nel senso che ogni tanto, una volta al mese, chi riesce, chi è più fortunato, riesce a trovarsi in portafoglio, magari virtualmente, insomma, lo stipendio. Chi il 27, chi magari con un po' di ritardo, ci sono addirittura alcune categorie che i soldi li vedono dopo qualche mese. Però parliamo proprio di stipendi con te, Carlo. Sì, parliamo di stipendi perché è stato censito un focus a livello europeo che riguarda i principali 15 paesi del vecchio continente, e in questa indagine si è voluto mettere un po' a confronto quelli che sono proprio il reddito lordo di chi da un lato si affaccia al lavoro per la prima volta rispetto a quelli comunque che sono anche dei redditi lordi medi in peso di una vita lavorativa dei vari popoli. E anche qui dobbiamo anticipare ai nostri ascoltatori che l'Italia non ha fatto la sua bella figura. Dici qualcosa di più, nel senso che siamo messi male? Purtroppo nei 15 paesi il bel paese è proprio nelle ultime posizioni della classifica, soprattutto per quanto riguarda i salari d'ingresso, che viaggiano a una media di 27.000 euro. Certamente una classifica che, tenendo conto di quelli che sono i paesi più importanti, come per esempio possiamo parlare della Francia, della Svezia, della Finlandia, ma come anche la stessa Inghilterra, Germania e quant'altro, certamente noi siamo finiti proprio in fondo alla classifica. Coloro che stanno finiti meglio di tutti sono gli svizzeri, anche se che hanno una retribuzione media europea per i nuovi assunti di 83.000 euro e per chi invece lavora già da un po' di tempo di oltre 140.000 euro. No, no, però, scusa, ho capito bene? 83.000 euro per i nuovi assunti? Sì, 144.000 euro per i quadri. E quindi incredibile questa differenza, cioè negli anni siamo via via andati peggiorando, cioè negli altri paesi si adeguavano gli stipendi a quello che poteva essere l'inflazione piuttosto che, mentre da noi abbiamo percepito proprio un taglio. Sì, purtroppo l'Italia con gli anni in questa classifica l'ha scalata ma verso il basso. Certamente se la Svizzera da un lato si mantiene sempre un po' ai primi posti, dobbiamo anche ricordare che comunque la Svizzera gode anche di un regime economico diverso e che comunque ha un costo della vita diversa, però certamente l'abisso è enorme, soprattutto se paragoniamo poi l'Italia ai paesi anche più vicini a noi, come per esempio può essere la Spagna. Anche la Spagna in questi ultimi anni ci ha addirittura superato. Sono migliorate un po' tutte le economie, come per esempio quella dell'Olanda, come per esempio anche quella dell'Inghilterra, che pensiamo che i nuovi assunti si trovavano insomma al 12° posto e adesso insomma sono al 7°, addirittura chi lavora da un po' di tempo è passato fino al 4° posto in Europa, per cui una situazione che insomma fa capire come nel complesso nel nostro paese c'è stato un arretramento rispetto a quelli che sono i paesi più importanti di cui fino a qualche anno fa noi eravamo abituati a confrontarci. Mi viene voglia quasi quasi di andare in Svizzera, non so perché, va bene. Interessante questa cosa che ci apre ulteriormente l'ottica, no? Per comprendere un po' come siamo messi nella nostra vecchia Europa. Grazie quindi al presidente Carlo Garofolini, che ritroveremo anche nella giornata di giovedì per un altro appuntamento. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.